Ed ecco che fui flambo, e come sempre sei, la descrizione di un attimo, ed ecco che fui lampo, e come sempre sei, la descrizione di un attimo, parole. Ed ecco che come sei lampo, come sempre sei, la descrizione di un attimo, l'esperienza di una supernova esplosa, nuova esplosa in ogni canto. Never never give up, il mio sogno pina, il mio sogno pina, tensione tra uomo e Dio, intelletto e genio, in un gesto volto verso l'oltre, ove transisio il mio ego, egoista di te, come sempre te, descrizione di un attimo. E come sempre te, descrizione di un attimo. E come sempre te, descrizione di un attimo. Descrizione di un attimo, descrizione di un attimo. Te, stella in un incanto, colico, ripico, uguale a virtuale attimo. Oli, in parte, stino, fisico, brusco, sterzo, amato, pare distillare la porta d'oltre, sparare, sparare, sparare, distillare la porta d'oltre, sparare, sparare, sparare. Sazionare porta d'oltre, sparare, sparare, sparare, sparare, come un aeroplano, armato, afgano, Turek, Turek, e quanto lose yourself. E quanto lusi osservo, urlato il mondo a M, urlato il mondo a M, no, quando si fa un lampo, fire, perception d'or, perception d'or, incanto, incanto, suono, triangolo, triangolo, si svela il genio, a M, due carri armati.